30.000 fiori rampicanti strappano cuori, eppure un solo fiore pronto a staccarmi tra in l'anima con la foga di una pianta carnivora. D'amante impazzita, d'amante impazzita. Cocco soffice d'una suonatrice di liuto, per suicidarsi con piume dai robe, costruire un tuo simulacro per tenerlo rinchiuso nella mente come il cane alla catena. Incastro la testa nel cancello per pochi centimetri di gioia. Incastro la testa nel cancello per pochi centimetri di gioia.